poi mi informo anche dai tifosi. Se prendo un taxi, i conducenti dei taxi sono dei grandi esperti di calcio. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Avere un po' di, diciamo, rispetto per quello che ho dato a questa società, a questa squadra. Io non sto qua a dire voglio giocare, sto a disposizione, mi scade il contratto a giugno e valuterò qualsiasi cosa dovesse uscire. Così non riesco a starci perché mi dispiace, sto male io, sto male la gente che mi sta intorno. Francesco, è giusto che faccia quello che vuol fare. Se vuol giocare, deve continuare a giocare. Io gli ho messo a disposizione facendogli dei nomi quando qualsiasi ruolo. Tu che vuoi fare? Perché ora lui bisogna che cominci a pensare a quello che è il suo imminente futuro. Vuoi fare Giggs? Sempre seduto vicino a me, impari. Vuoi fare Nedved? Fai Nedved. Vuoi fare il calciatore? Fai il calciatore. Però, siccome devo ritirare sulle sorti di una squadra, non posso concederti niente. Noi siamo sempre e comunque per il capitano. Non so se ha sbagliato Spalletti, ma sicuramente contestare Totti e criticare Totti non è la cosa migliore. C'ha ragione Spalletti. No, non andava cacciato, è solo quello. Poi Totti può aver sbagliato, ma non andava cacciato. Sporcata la leggenda perché un allenatore che fa finta di pensare prima alla squadra. Perché non è vero che tu pensi prima alla squadra. Tu hai pensato prima a lui, prima distrugge lui. Ma comunque a Roma viene sempre davanti a tutto. Da 100.000 chilometri da qua non può parlare. Ricostruzione sonora di un tornado. La Roma, tanto Alessandro Marco Tulli, professore, nostro autore oggi, Andrea Roccabella in regia, Federico Vini in redazione. Roma detuttizzata, distrugge il Palermo 5-0. Palermo, consentitemelo, oggi insieme alla Sampdoria la peggio squadra di Serie A, oggi. Doppietta per Dzeko, addirittura redivivo, doppietta per Salah. Il capitano in tribuna a prendere un uragano di applausi. Oggi è tornato ad allenarsi, è tornato a casa sua a Trigoria da cui era stato cacciato. Ma ovviamente il rumore è ancora forte. Vi piaccia oppure no? Poi parliamo anche di altre cose. C'è chi gira dell'Olimpia Milano che ha vinto la Coppa Italia dopo 20 anni, seconda parte del nostro programma pure. Parleremo del Napoli che ha atteso la prova della verità con il Milan. Intanto parliamo con Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Come va? Beh, stasera di Chitaca, piatto ricchissimo. Sì, piatto ricchissimo, a parte mi sto strozzando e questo sarebbe... È troppo ricco il piatto. Beh, di Totti ovviamente si parlerà anche lì, oltre che della partita di Totti si parlerà sicuramente molto, si parlerà ovviamente di Napoli-Milan tantissimo, di Juve-Bayern in arrivo, c'è Giaccherini, c'è Luca Carboni, c'è un sacco di cose, però è chiaro che parleremo tanto di Totti, che è veramente un tema che supera, vedevo anche prima i telegiornali, che supera i confini dello sport, no? Certo, cioè, è un tema che diventa metafora di mille cose, di giovani e vecchi, ovviamente metaforicamente vecchi, di rispetto, riconoscenza o di leggi uguali per tutti, appunto di regole, di eccezioni, insomma è un tema veramente molto interessante. E che divide ovviamente, perché non puoi stare con le scarpe, con i piedi in tutte e due le scarpe, o da una parte o dall'altra, insomma. Pallotta parla di da lontano, abbiamo sentito prima un tifoso che è poi di da 100.000 chilometri da qua. Parla di ricostruzioni fantasiose ovviamente dei giornalisti, mi sembra che ci sia poco di fantasioso in tutto questo, lo incontrerò non si sa bene quando, questo è il senso della risposta. Il senso, diciamo, politico, politico della vicenda è che chiaramente il problema rimane, anche se io penso che già ieri sera si è andati verso una riappacificazione, e da quello che mi risulta, io ieri sera sono stato all'Olimpico, sono andato apposta a vedermi la partita proprio per avere un'idea, e ti dico che secondo me già sabato pomeriggio Totti, già dopo aver fatto l'intervista, Totti si era reso conto di aver poi esagerato. Sì. Ma al di là del fatto che poi nell'intervista di Totti, con una lunga intervista, ci sono anche cose molto rispettose, molto, molto belle, molto morbide, non è che sia uno sfogo clamoroso, però Totti è No, però c'è una cosa molto sibillina che secondo me potrebbe essere quella, qui sì stiamo andando di congetture, che potrebbe aver fatto incazzare Spalletti al punto da cacciare Totti dal raduno. Quello che Totti ha detto su Spalletti, cioè questa cosa. Sì, il rapporto buongiorno, buonasera, però lo stimo sia come persona che come allenatore. Speravo che tante cose lette sui giornali che me l'avesse detto in faccia, quello sì. E poi c'è Totti che dice: Spalletti, bravo allenatore, lo consiglierò per il futuro. Ma consigliare a chi? Ma in quale veste? Sì, scusa, no, pensavo era lo stesso per sentire. Sì, c'è anche questo elemento che, se vuoi, riguarda di più il futuro di Totti e il suo possibile ruolo nella Roma che verrà. Io credo sinceramente che da un lato c'è una realtà tecnica di un giocatore che in questo momento è, non voglio dire tollerato, perché non è tollerato, io penso che Totti, questo lo sa benissimo anche Spalletti, l'ha anche detto, è ancora in grado di fare la differenza, alcune volte anche da fermo, fra l'altro si sta anche allenando bene da quello che mi risulta, però insomma è chiaro che non è più centrale in questa squadra, e quindi, essendo però il giocatore più forte che la Roma ha avuto sempre nella sua storia, e chissà quando nascerà, se mai ne nascerà un altro forte come lui, è chiaro che il peso che ha è un peso molto importante, quindi non è che lasci in panchina, no, ma evidente, no, ma evidente, ma guarda, tu lo sai come la penso, vale anche non portarlo in panchina, vale lasciarlo seduto tutto il tempo. A me non mi piace per Totti, e sono sempre stato un tottiano, non mi piaceva per Del Piero ed ero molto meno del pierista, se mi passate questo bruttissimo neologismo. Ecco, mi spiace vedere giocatori di questo tipo maltrattati agonisticamente, certo. No? In campo no, tre minuti. Abbiamo detto l'altro giorno, certo, che non ti era piaciuto quei tre minuti contro il Real. No, ma come per Del Piero, vai a scaldarti, certo. E gioca a recupero, ma detto come? Detto questo, o come Aviezzanetti. O come Aviezzanetti, su cui Mazzarri si è giocato la panchina. Esatto. Quindi, per carità, stiamo parlando di cose che riguardano appunto i sentimenti e anche, se vuoi, l'intelligenza delle persone. Io credo che Spalletti sia arrivato a Roma con un atteggiamento veramente molto forte, molto, molto deciso, da uomo forse meno portato al compromesso rispetto a prima. Mi raccontano di frasi forti nei confronti di Pjanic, forti, sì, in positivo, proprio per risvegliare il giocatore di qualche anno fa. Mi dicono insomma che anche in allenamento, se c'è qualcuno che sta sempre per terra e cade, può essere anche uno dei migliori giocatori della squadra. Però gli si dice, insomma, è molto deciso, e fra l'altro mi sembra anche che stia facendo bene, insomma, sì, questa è la quinta vittoria consecutiva, cioè, mi sembra che la squadra sia con lui, che l'impatto sia molto positivo. Detto questo, è chiaro che ieri Spalletti si è trovato di fronte a un bivio, di fronte a una scelta. Secondo me quella decisione lì era una decisione giusta, certamente senza precedenti, soprattutto nei confronti di uno come Totti. Quindi che cosa significa questo? Significa che di fronte a un errore da parte di Totti, che secondo me è il punto di partenza, Spalletti ha reagito, non voglio dire approfittandone, ma cercando lo strappo. Uno strappo che secondo me si richiuderà, ma con basi molto più chiare e molto più precise. E sì, ieri sera la squadra però ha risposto. È stata alla fine per Spalletti, dopo i fischi iniziali, ho fatto anche un tweet, poi è stata la serata perfetta. Ma chiaro. L'ingresso in campo di Strootman è un ottimo, se vuoi, anche diversivo mediatico. Sì, no? certamente. La doppietta di Dzeko è un fatto. Certamente. Al di là del gol più clamoroso della storia che si è magnato, come diciamo noi a Roma, poi però io ho rivisto... Cioè, ho visto forse per la prima volta quest'anno, con tutte le gare che dobbiamo fare perché il Palermo ha grandissimi problemi, ma ho visto veramente un grande giocatore. Allora, ci fermiamo per il traffico, siamo tremendamente in ritardo, lo sentiamo subito. Tutti convocati. tutti convocati. Dunque, c'è chi mi scrive via WhatsApp e questo è un macro discorso. Cazzate, il messaggio qui è: tutti sono uguali. Non è vero che tutti sono uguali, non, i giocatori non sono tutti uguali, ce ne sono alcuni che sono meno uguali rispetto agli altri, il resto è mancia. Però è anche vero che se tu devi produrre da allenatore uno shock culturale, per quanto doloroso, per quanto complesso, insomma, la strada che devi prendere è questa. E questo secondo me è quello che è successo, te lo dico proprio sinceramente, nel senso che io ci credo quando Spalletti dice che il figlio l'ha rimproverato, che c'ha stai sette maglie di Totti appese al muro. Ci credo assolutamente. Sì. Però Spalletti è arrivato qui con l'idea che per fare il bene della Roma qualche volta bisogna essere anche un po' duri, bisogna far rispettare un certo tipo di regole, perché secondo me ha trovato... Quindi con la missione di detottizzare la Roma. Sì, ma no, non necessariamente di detottizzare la Roma, ma di far sì che la Roma diventi, tra virgolette, una squadra normale, dove Totti rimane un simbolo, una leggenda assoluta, però dove se l'allenatore, e secondo me, ripeto, quella sarà una scortesia, ritiene che lui debba entrare a tre minuti dalla fine, perché magari con una punizione riesce a fare il gol dell'1-2 e a rigiocarsi la partita a Madrid, e questa cosa non venga vista come chissà quale no, mancanza di rispetto. Il problema è che è mancato qualcosa nella comunicazione tra i due, perché l'intervista, lo diciamo a chi non lo sapesse, tanto insomma, l'intervista è stata voluta da Totti, cercata voluta da Totti e realizzata a Trigoria. Io saluto anche Antonio Padellaro. Ciao Antonio. Buongiorno a tutti. Come stai, direttore? Sto bene. Bene. Senti, direttore, ieri non ho usato questa parola a caso, Luca Telese ci ha detto Spalletti è arrivato con l'idea di detottizzare la Roma ed è stato un killeraggio. Vabbè, dai, allora, intanto sottoscrivo l'analisi di Pardo dalla prima all'ultima parola, è così, e quindi va, adesso aspettiamo gli eventi, perché cerchiamo di fare un passo in avanti. Intanto si aspetta un comunicato di Pallotta, attenzione, perché un comunicato di Pallotta può essere tutto e il contrario di tutto, perché alcuni siti riportano espressioni tipo vergogna dopo aver ascoltato le frasi di Totti, altri parlano di un Pallotta più conciliante, però ecco, non è una storia che finisce qui. Allora, secondo aspetto, aspetto mediatico, che è forse quello, diciamo, più interessante in questo momento. Allora, l'aspetto mediatico ha due facce. Intanto Totti, che è un grande conoscitore usa i media molto bene, anche lui stesso è protagonista, sì, certo, di spot pubblicitari, eccetera. Evidentemente sapeva perfettamente che avrebbe fatto un gran casino con la sua intervista, l'ha fatto ugualmente, e oggi tutti parlano di Totti. Io ho l'impressione che lui soffrisse più che la mancanza del campo, la mancanza di visibilità, nel senso che da un po' di tempo nessuno più parlava di Totti, no? E quindi è riuscito nel suo intento, tutto il mondo parla di Totti. Il secondo aspetto era stato anche lui a tirarsi un po' fuori, no? Soprattutto nei momenti molto difficili che la Roma ha attraversato con Garcia. Lui era infortunato, d'accordo, però potevi aspettarti una maggiore presenza di Totti dal punto di vista mediatico, o no? Sì, diciamo che lui ha aspettato di stare bene fisicamente, perché poi bisogna leggere le parole di Totti per quello che sono. Lui parla con una certa sincerità, no? Quando dice che stava bene, però non veniva schierato. Attenzione che a Sassuolo lui, con quella scenetta di lui che palleggia con il raccattapalle, che fa gli scherzetti ci aveva già mandato un messaggio tottiano, cioè io ma che sto a fare qua? L'abbiamo capito subito. Lo diciamo alla romana. Ma il secondo aspetto è quello della marmellata in questo momento che sta inondando la città di Roma, una città tra l'altro molto portata a radio, commenti, tutti che sanno tutto, in retroscena, quindi diciamo che l'evento in sé viene sovralimentato da milioni di ovviamente di pareri, e questo dimostra, ho finito, che volevo sentire ovviamente se eravate d'accordo, che il calcio parlato è molto più interessante oggi del calcio giocato. su queste vicende non meno c'è male, dubbio. Meno male, visto il certificato, che meno male. Mi visto che c'è anche tutti convocati ogni giorno. Io male. Penso, tutti i giorni, ma insomma, se lo si dice lunedì fa particolarmente piacere. No, guarda, io penso questo, che innanzitutto Totti è uno vero, cioè io poi l'intervista l'ho vista, l'ho sentita, insomma è lo sfogo di un giocatore che però anche nei momenti comunque carini, che, insomma, lui ce l'ha questa spontaneità, quindi io francamente adesso, siccome poi son, proprio a proposito di social, sono state anche rovesciate tutta una serie di boiate su Totti, che avrebbe fatto fuori 15 allenatori, che non è, no, ci sono tutti gli antitottiani, sì, che adesso dicono che è un giocatore che non è mai stato vincente, sì, certo. Certo. Totti rimane una grande storia d'amore di uno che ha rinunciato spesso a dei soldi, poi facciamo un'analisi psicanalitica, può darsi pure che insomma appunto mettendolo sul lettino ci sia stata una componente di paura, di voglia di non lasciare la coperta di Linus, di una città, di una squadra che conosce e che ama, però insomma nel calcio business di oggi fatemi dire che uno come Totti, insomma, magari ce ne fossero di più, no? Come Zanetti, come Maldini, come Del Piero, se noi questi qui adesso li cominciamo a biasimare per quello che hanno fatto, secondo me andiamo in una componente che in una direzione è completamente diversa rispetto a quella invece di un calcio romantico, quindi questo è il punto di partenza. Detto questo, poi è ovvio che è stato uno sfogo, lui ha fatto tutto, ha organizzato tutto, a me viene anche da pensare che in qualche modo la frase di Spalletti in conferenza stampa l'altro giorno, quando aveva detto che Totti avrebbe giocato probabilmente titolare, probabilmente era un tentativo di lanciare un segnale, o che lui si fosse reso già conto che Totti era sul punto di scoppiare, o che sapesse già dell'intervista, immaginate, questo non lo so, però probabilmente era anche un modo, oltre che essere la partita praticamente giusta per farlo, perché poi la partita di ieri sera dimostra che poteva essere veramente l'occasione per avere Totti in campo dal primo minuto, e forse Totti ha perso un'occasione, non dico irripetibile, ma per giocare titolare, sì. Quindi io penso che la riappacificazione ci sarà. Certo, ha ragione Padellaro quando dice che insomma adesso arriva, sta per arrivare il comunicato di Pallotta, sarebbe anche ora, no? sarebbe anche meglio arrivasse Pallotta a dirimere questo, un casino che non è una roba da poco. I precedenti, Fachin Idiots e tutto il resto, sa, Pallotta può dire la qualunque, come dicono qui a Milano, sì. No, può dire la qualunque, perché lo sappiamo, è un uomo da questo punto di vista, senza peli sulla lingua, senza grande diplomazia, e quindi siamo curiosi di aspettare e capire, però la certezza secondo me è che la Roma non farà ponti d'oro a Totti per rinnovare il contratto, che certe sue frasi un po' spericolate, anche se poi alla fine lusinghiere nei confronti di Spalletti, lo consiglierò alla società, sono state viste un po' come un'ingerenza. In quale veste, per l'appunto? Cioè, direttore Padellaro, secondo te, per chiudere, poi io parlo, andiamo avanti, ma Totti che cosa vuole fare da grande? Perché uno dei grandi problemi dei giocatori è questo qui, cioè non riescono a smettere di ballare. Cosa vuole fare da grande? Il dirigente della Roma, e se sì con quale ruolo? Perché vuole avere poteri decisionali, non lo so se è capace e se Pallotta vuole dargli questi poteri decisionali. Vuole giocare diciamo ancora? Che... Da un'altra parte? Che vuol fare? Sì, dunque, diciamo che Baldissoni ieri sera ha detto una cosa che molti si erano dimenticati, che c'è un contratto di 6 anni da dirigente per Totti che è stato firmato, quindi lui se domani dovesse smettere di giocare potrebbe fare dirigente. Poi avete ragione voi, a fare cosa, con quale ruolo, forse questo è da definire, ma il punto centrale è che lui vuole continuare a giocare. Allora, invece di dividersi su ragione Spalletti Totti, la vera domanda è questa: Totti, e ieri sera Spalletti lo ha detto, Totti che è un genio, adesso diamo per scontato che poi io che sono un tifoso da sempre della Roma, figuriamoci se non stravedo per Totti, però oggi Totti a 40 anni con il fisico di un quarantenne che vuole fare? Come può servire? No, cioè, alla causa, questo è il punto, perché in fondo ci sono dei giocatori che hanno continuato a giocare anche dopo i 40 anni, Beckham per fare un esempio trovò un ruolo, no? Nel Milan, poi se ne vanno in America o in Asia, sì. Io penso che lo sforzo, che forse è la cosa più interessante, dovrebbe fare Spalletti, se Totti sta bene, è di trovargli un ruolo e un tempo per farlo giocare ancora. Di questo non si parla, perché forse perché Spalletti ormai non lo vede più, però lui credo che possa ancora giocare ed essere utile alla squadra. Però quello secondo me che Spalletti ha in testa è che non può essere un suo problema adesso dover per forza trovare un ruolo a Totti. Cioè Spalletti sta facendo, non sta facendo prigionieri, sta facendo una serie di scelte molto forti, molto aggressive, giusto o sbagliate che siano, i risultati per ora sono sicuramente dalla sua parte, e ha semplicemente deciso di applicare le regole uguali per tutti. Poi è ovvio che Totti non è come tutti gli altri, e ripeto, secondo me questa roba qui con un pochino più di dialogo la si sarebbe risolta nel chiuso di uno spogliatoio, con un chiarimento, con una stretta di mano. Assolutamente, non con un'intervista, non con un'intervista resa peraltro a Trigoria a 10 metri da Spalletti. Ma mica è scemo, lo sapeva che l'intervista sarebbe deflagrata. Come ha detto Spalletti, ha lanciato 2-3 missili, lo sapeva perfettamente. E dalle cronache dei giornali sappiamo che qualche amico gli aveva detto lascia stare. Sì. O togli qualche frase, e lui no, ha voluto insistere, perché dice io sono Totti e voi non siete Grillo. E anche l'aspetto diciamo tecnico, cioè il fatto che l'intervista sia stata data alla bravissima Donatella Scarnati, cioè, è chiaramente un'ulteriore conferma del fatto che era un'iniziativa personale del giocatore, certo, perché la società, ho letto anche delle ricostruzioni da questo punto di vista, ha un rapporto assolutamente privilegiato con Sky in primis. Da un punto di vista anche proprio di politica, sapete che insomma Sky ha i diritti della Roma, ha un rapporto privilegiato con la Roma, quindi la scelta della Scarnati è una scelta che va chiaramente in una direzione diversa, che è quella del giocatore che dice che vuole parlare, insomma ci sta, non solo ci sta, ma io da giornalista viva Dio che un giocatore ci abbia i suoi giornalisti di riferimento dei quali si fida. Assolutamente. Benissimo, però questa è l'ulteriore dimostrazione del fatto che è stata una sua iniziativa personale. Noi invece dobbiamo smettere un attimo di parlare, riprenderemo subito dopo la borsa. Ringrazio il direttore Antonio Padellaro. Grazie direttore. Borsa. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. 800 24 00 24, e tra poco cominceremo anche a parlare con gli ascoltatori, sì, ma state tranquilli, parleremo anche di calcio giocato. Ieri non si è visto un grandissimo che, se non a Fiorentina, che è tornata a vincere sul campo difficile con quello di Bergamo, si è rilanciata per il terzo posto, tiene il passo, Carnic è tornato al gol, eccetera eccetera. Stiamo aspettando, ma quella la conosceremo vivendo la partitissima di questa sera, con la risposta del Napoli al momento difficile con le due sconfitte consecutive. Pierluigi, tu vedi come me qualche similitudine tra la vicenda di Totti e quella di Del Piero? Con Del Piero la società era stata brutalmente leale. Ha detto tu non rientri più nei nostri piani. Poi sul campo Del Piero era stato abbastanza maltrattato da Conte, come secondo me sportivamente Totti lo è stato con Spalletti. Ma guarda, io ti dico che sicuramente fino a qualche giorno fa erano proprio due storie di segno completamente opposto, nel senso che tante volte noi ci siamo abbiamo detto che insomma quella nota lì fu una nota abbastanza stonata, ci fu anche lì, se vuoi, una provocazione da parte di Del Piero fece quel discorso della firma in bianco che finì per mettere in difficoltà la società, ma oggettivamente perché è ovvio che insomma cioè se io ti dico che se io domani mattina dico che firmo in bianco per un altro emittente o anche per questa emittente che non mi vuole far lavorare più, comunque li metto in difficoltà. Chiaro, no? Perché, questo ecco, è chiaro, Pierluigi, questo è chiaro. Cioè li metti al vento. Sì, gli dai tutto l'onere di dover essere loro a prendersi la responsabilità. Bravo, a prendersi la responsabilità. Di no. Detto questo, la vicenda sicuramente non è stata gestita bene, non rimane un esempio di addio a tutto tondo, come è stato per esempio l'addio di Viassanetti dall'Inter, che è stato perfetto dal punto di vista del contesto. Insomma, però anche lì c'è Mazzari che si è giocato il posto. Però quella è rimasta un problema di una partita che chiaramente Zanetti avrebbe voluto giocare, ma Zanetti poi è diventato è diventato presidente della società, di fatto vicepresidente, insomma con un ruolo importante di ambasciatore, l'addio fisicamente è avvenuto, me li faccio tutti gli addii, la sera di, non mi ricordo, di Interlazio mi pare, fu bellissimo, come fu bellissimo quello di Del Piero. Detto questo, io non trovo niente di scandaloso che la società prenda anche le sue decisioni, cioè te l'ho detto ieri, te l'ho detto mille volte, non si deve sentire obbligata a garantire un futuro millenario da dirigente, lo fa se ritiene che possa essere un buon dirigente. Nedved lo è, Del Piero non lo è. È un peccato perché il rapporto che esiste fra Totti e la Roma, e lo si è visto anche ieri sera allo stadio, quando insomma diciamocelo, il punto di partenza della serata sono stati i fischi a Spalletti e gli applausi e i cori per Totti, di buona parte del pubblico. Poi sì, ovviamente anche lì non è che i fischi possano fotografare al 100% statisticamente i l'umore dei tifosi della Roma. Io ho fatto un sondaggio che con 2500 voti, magari non saranno tutti tifosi della Roma, ma al 55% danno ragione a Spalletti, al 45% a Totti, sì. Cioè mi sembra che sia molto divisa l'opinione, certo, pubblica. Certo, come è normale che sia in vicenda di questo tipo. È un peccato perché Totti rappresenta veramente un'eccezione, così come fu un peccato in maniera molto diversa Maldini. Ma è chiaro. Adesso guarda, ritorniamo su questi addii, però fammi parlare con un paio di ascoltatori. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Due considerazioni, una di calcio giocato e una non. Prego. Calcio giocato, Paolo Sosa sta dimostrando di essere un grande allenatore. E lo sta dimostrando domenica dopo domenica dopo domenica. Lei si riferisce alla partita di ieri? No, io mi riferisco all'annata. Ah, certo, appunto, certamente. Mi riferisco a una Firenze che riescono a contestare una società che sta dimostrando negli anni di fare bene. Questo non lo so nemmeno io, e l'ho già detto molte volte. Appunto, per quanto riguarda Totti, non mi è piaciuta la sua intervista, mi è sembrata un'uscita alla Mancini, forse certe cose doveva dirle direttamente a Spalletti. Non mi è piaciuto Spalletti quando l'ha fatto entrare a due minuti dalla fine contro il Real Madrid. Non vedo il motivo di far entrare un campione come Totti all'88esimo minuto in una partita già compromessa. In due minuti il signor Totti non può cambiare la partita. Detto questo, Spalletti ha tutte le proprie ragioni, lui deve far vincere la Roma, se lui ritiene opportuno che il signor Totti debba stare in panchina, sta in panchina, non farlo entrare all'88esimo mi è sembrato un grande errore. Sì. Ti ascolto per radio e ti faccio i complimenti, soprattutto al mitico Pardo. Ma io sono grosso modo d'accordo su questo. Pierluigi, mi fai salutare uno che è stato un giocatore simbolo per molti, Cristiano Lucarelli? Ciao Cristiano. Ciao, buongiorno. E come vuoi che vada, appena perso il derby contro Gattuso che allena il Pisa, immaginate l'incazzatura. Come vuoi che vada, è tripla, quadrupla. Senti, dicevo, tu sei stato giocatore simbolo come pochi altri, anche da un punto di vista letterario, come sappiamo bene, abbiamo già parlato diverse volte. Spalletti, Totti, brutalmente da che parte stai? Ma allora, intanto bisognerebbe conoscere a fondo i rapporti, gli equilibri che esiste tra i due, e noi chiaramente nessuno di noi può saperlo. Io diciamo posso fare un commento in linea diciamo generica, no? Perché sì, poi bene o male io sono già passato da quella situazione. Sì, lo so. Quindi ma io credo che alla fine noi siamo degli atleti, e in quanto tali diciamo dobbiamo fornire delle prestazioni, soprattutto di livello fisico di un certo tipo, a maggior ragione nel calcio di oggi. E quando si arriva a una certa età è chiaro che questo non è più, diciamo, non è più possibile, no? Quindi io credo che io personalmente da solo mi sono reso conto che non era più il caso che continuassi a giocare, perché mi rendevo conto anche durante gli allenamenti che quell'arte andavano più forte di me. Sì. Quindi io tornai dall'esperienza di Napoli, incontrai il presidente Ghirardi ritornando a Parma dal prestito, e gli dissi: presidente, io se vuoi vado in ritiro, ma vi prendo in giro tutti, perché A, non ho più le motivazioni, B, mi accorgo che gli altri vanno troppo più forte di me. E quindi per uno che ha sempre vissuto un po' da leader, quando vedi giovani di 20 anni che ti doppiano, cioè devi capire da solo che è arrivato il momento di fare di fare un passo indietro. E così tecnicamente, posso chiederti, Cristiano, se tecnicamente secondo te è così la situazione di Totti? Cioè Totti può essere ancora utile tecnicamente a questa squadra? Secondo me in certe partite e in certi momenti delle partite, quando magari scendano un po' i ritmi, secondo me tecnicamente può essere ancora diciamo decisivo, però secondo me pensare che possa, diciamo, giocare con continuità a 40 anni, per quanto professionista, per quanto allenato bene e con un preparatore atletico personale, spersonalizzato, io credo che a 40 anni si faccia un po' fatica. Beh, ma lui non chiede di giocare 90 minuti, Cristiano, però anche, sarà capitato anche a te di arrabbiarti come una pantera se ti mettevano in campo a 3 minuti dalla fine al posto del ragazzino per perdere tempo, per tenere palla. Ma io sicuramente, se mi fosse successo, sì, non mi sono mai messo nelle condizioni di farlo succedere, perché ripeto, quando mi sono accorto che ero sul viale del tramonto, chiari. Quando mi sono reso conto di essere arrivato, diciamo, ho tolto l'imbarazzo da solo. Sì. E con questo non voglio dire che Totti è arrivato, questo può saperlo solo lui. Sì. Parlo solamente di un'esperienza mia personale. Sì. Cristiano, ti devo chiedere altre due cose. Dammi 30 secondi per il traffico, torniamo subito in Leopardo. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Tutti convocati. Allora, comparto già approcciato il discorso, voglio sentire anche l'opinione di Cristiano Lucarelli. Stavamo facendo un parallelo tra questa situazione di Totti e l'addio brutale, se vogliamo, traumatico, ma leale in fondo di Del Piero con la Juventus, almeno per quanto riguarda i rapporti con la società. Poi Conte lo trattò nello stesso modo, come ha fatto adesso Spalletti, perché un sacco di volte l'abbiamo visto riscaldarsi nel finale di partite, certe volte nemmeno entrare. Maldini fischiato dai suoi tifosi in quella orripilante giornata che ti ricorderai anche tu. Certo. Si parlava di Zanetti, addio elegante, diceva Pierluigi giustamente, ma su questa situazione Mazzarri si è un po' giocato la panchina. Sono tutte storie diverse, sono tutte storie difficili, dove io ripeto, una persona deve capire, deve avere l'intelligenza di capire che a un certo punto deve... Non lo sento più Lucarelli. No, è come una storia d'amore. Non ricordo una storia d'amore dove ti si lascia senza colpo ferire, no? Certo. E quindi lì è più o meno la stessa cosa. Calciatore, magari noi calciatori pensiamo che ci sia dovuto tutto in virtù di quello che si è fatto. La società, giustamente, dal suo punto di vista, può dire sì, ma io ti ho pagato per quello che hai fatto, ho pagato le tue prestazioni. Ed è chiaro che, secondo me, dovrebbe, io ripeto, mi piacerebbe sentire la versione anche di Francesco, perché onestamente, sentendo le motivazioni di Spalletti ieri sera, io ora da allenatore non mi sento di dargli torto a Spalletti per come ha raccontato il problema. È chiaro che se magari Francesco ha avuto quello sfogo davanti al gruppo, un allenatore anche il più elastico non può far passare questo, perché sennò si creerebbe dei mal di pancia nello spogliatoio, no? Sì. Se uno, anche se ha fatto tantissimo per la Roma, però fa un po' sopra le righe, allora dal giorno dopo si sentono tutti autorizzati a far così. Quindi diciamo, io credo che non abbia fatto piacere a Spalletti prendere quella decisione, è stato indotto sulla scia di questo diverbio che c'è stato. Quindi ripeto quello che ho detto, mi piacerebbe sentire la versione di Francesco, perché sentendo parlare ieri sera a Spalletti diventa difficile dargli torto. È un po' quello che diceva Pardo a proposito della firma in bianco proposta da Del Piero, no, Pierluigi? Sì, cioè, metti l'altro nelle condizioni di prendere una decisione scomoda. Metti pressione sull'altro, sicuramente metti pressione sull'altro. Ripeto, è un peccato, perché poi la storia di Totti è una storia veramente tra le bandiere, è la bandiera forse più bandiera, nel senso che è nato nella Roma, è romano, è romanista fin da bambino, ha avuto sicuramente tantissime offerte, quindi stiamo parlando di una storia veramente speciale, ed è un peccato che possa finire così, perché poi alla fine io credo, di fondo che nell'intervista viene fuori che Totti vuole ancora giocare. E quindi secondo me lui ci sta pensando, secondo me lui andrà in America. Anche secondo me. Perché mi sembra abbastanza chiaro. In America ci si poteva andare. Ecco, ci si poteva una strada per poi tornare, magari. Esatto, ci si poteva andare. Già programmare un rientro una volta terminata la carriera di calciatore, secondo me così si fa contenti tutti. Sì, andare magari a sfruttare appunto la proprietà americana di Pallotta, andare 1 o 2 anni a completare un percorso, chiamiamolo un atterraggio morbido, perché poi guarda, io dico sempre che noi calciatori alla fine è più la paura di ritrovarci in un mondo che non conosciamo, no? Di essere... perché bene o male sei sempre più o meno giovane quando smetti di giocare a calcio. Ve lo dice un calciatore, a tutti gli effetti noi finiamo di giocare a calcio, siamo disadattati perché non sappiamo neanche andare a pagare una bolletta alle poste, e quindi è chiaro che spaventa il dopo, e uno cerca più che può di rimanere agganciato. È il momento più difficile, credo. Questo è un grande tema, perché io credo che in nessun'altra professione attività umana sia così, sia questo distacco così profondo, questo momento così straniante fra il prima, nel quale tutti ti vogliono, tutti ti cercano, sei sulla cresta dell'onda con tutte le pressioni del caso, e il dopo. E sei molto giovane oltretutto, perché chiaramente anche gli artisti, anche le rockstar hanno i momenti positivi e i momenti negativi, però la rockstar la puoi fare fino a 60 anni, ci sono delle cose, o comunque un attore la puoi fare fino a 60 anni, fino a 70 anni. Questa è veramente invece un tipo di situazione particolare, singolare, quindi io credo che al di là di tutto, e questo vorrei che venisse fuori, al di là del fatto che secondo me Totti ha sbagliato a fare quell'intervista, avrebbe dovuto usare altri temi, ma io poi ci vedo anche semplicemente lo sfogo di un ragazzo, cioè, ci vedo questo tema qui, il tema di un ragazzo che vuole continuare a giocare, esattamente come Del Piero vuole continuare a giocare, certo. Come Maldini, secondo me, finì per ballare un paio di stagioni di troppo, diciamolo chiaramente. Lo so che non è facile, però il tema è questo. Un'ultima cosa, Cristiano Lucarelli, da allenatore invece. Allenatori e tifosi contro. Gasperini ieri contestato, striscione, hai fatto più nomi che punti in riferimento a aver nominato certi tipi ultra del Genoa. A Torino Ventura, che è il maestro di questo toro, duramente criticato, come accade in questi tempi. E vorrei sottolineare l'atteggiamento di Cairo, che immediatamente scende lì e va al fianco del suo allenatore, perché è così che si fa. Ma sì, diciamo, separerei le due cose. Gasperini ha preso una posizione forte, diciamo, nei confronti della curva, quindi diciamo, secondo me un po' poteva anche aver messo un preventivo, no? Che poteva esserci una reazione, non che sia giustificato questo, che sia giustificabile, ma comunque secondo me nel momento in cui prendi una posizione forte devi anche pensare, e sai già che dall'altra parte non è che c'è dei premi Nobel e quindi si può pensare che reagiscano in una certa maniera. Sì. Quindi nel caso di Ventura invece secondo me è incredibile, perché pur avendo giocato 2 anni al Toro e avendo grande stima e grande affetto per l'ambiente, cioè Ventura è di fatto colui che ha rilanciato il Toro sul punto di vista, cioè lui è arrivato in Serie B, ha portato subito, cioè la squadra che c'era non era messa tanto bene anche a livello, diciamo, di stabilità societaria quando è arrivato lui al Toro, è arrivato in Serie B dopo una delusione, ora non ricordo bene se dopo una retrocessione o dopo un campionato di B non vinto. Comunque ha portato il Torino in Europa, cioè ha riportato il Torino a livelli alti, altissimi, ha vinto il derby dopo non so quanti anni, insomma è incomprensibile in quella situazione, quella contestazione, perché ripeto, parlano talmente a favore di Ventura i risultati, chiaro, che uno veramente a volte si meraviglia. Però purtroppo io dico sempre, nel calcio italiano qualsiasi tifoseria, qualsiasi, dalla più grande alla più piccola, non tiene mai di fatto della componente avversario. Cioè, certo, è come se giocasse solo la propria squadra del cuore. Cioè, certo. Vinci o perdi contro te stesso. Non si tiene mai di conto che c'è altre società, altri imprenditori, altri presidenti, altri giocatori, altri allenatori che fanno, e altri tifosi che fanno e che vogliono né più né meno quello che vuoi te. Quindi ognuno vede sempre le cose dal suo punto di vista, e poi è chiaro che da lì si innesca tutta una serie di di casini e incomprensione. Assolutamente sì. Grazie Cristiano, bocca al lupo. Anche a voi, un saluto. Ciao Pierino, ci vedo stasera a Tiki Taka. Assolutamente, 23:30. Ci sento domani alle 14. Intanto sentiamo GR. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati. C'è un ascoltatore che si chiama Fausto che mi scrive su WhatsApp: il problema di Ventura è di non aver mai rilasciato dichiarazioni da conclamato anti-juventino. Per i tifosi del Toro è un peccato esiziale, non sanabile da alcun risultato, fidatevi, vivo a Torino, conosco i miei tori. Se è così, a maggior ragione, la maglietta io sto con Gasperini ce l'ho già, perché qualche gentile ascoltatore me l'ha fatta arrivare. E adesso ne vorrei un'altra, tutta la vita con Ventura, perché se è così vuol dire che non è paraculo e a me i personaggi come Ventura piacciono da morire. Marco, provincia di Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io mi sono laureato giovedì scorso. Auguri, complimenti. Grazie, ma non era per questo. Comunque, per la mia tesi, nella mia tesi io scrivo anche che uno deve essere in grado di riconoscere il proprio ruolo e cercare di applicarsi al meglio per interpretarlo nel migliore dei modi. Secondo me Totti questa cosa qua a quasi 40 anni ancora non l'ha capita. Nel senso che Totti è un atleta, è un giocatore, si deve mettere a disposizione dell'allenatore e comportarsi da atleta. Poi sta l'allenatore a riconoscere il fatto che Totti è Totti, quindi è tecnico, è bravo, è fortissimo, è una bandiera, però sta a lui, non è che sta a Totti dire voglio, devo giocare, non devo giocare. No, questo no, questo non sta a Totti, ma io credo che Totti non lo pretenda. Io credo che Totti giustamente pretenda di non essere umiliato con 3 minuti a fine partita, perché questa è un'umiliazione sportiva. E non sono assolutamente d'accordo con l'affermazione di Comodo secondo cui i giocatori sono tutti uguali. No, non è vero, non sono tutti uguali, ce ne sono alcuni che sono molto meno uguali degli altri. Sapete cosa vi dico? Ho letto un libro di recente, Michael Jordan. Phil Jackson, da neo allenatore, quindi da allenatore che passava da ruolo di vice a quello di capo allenatore per la prima volta nella sua carriera NBA, primo discorso ai giocatori: alza la mano fino a dove può e dice qui sopra sta davanti alla squadra, qui sta Michael Jordan, poi abbassa la mano, qui sta Scottie Pippen, abbassa ancora la mano, qui Horace Grant. Ha disegnato nell'aria le gerarchie della squadra davanti alla squadra, perché i giocatori non sono tutti uguali e questo lo sanno anche loro, lo sanno i tifosi, lo sanno gli allenatori. Valerio da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, ho apprezzato molto le parole che ha detto. Io sono molto indignato di quello che è successo sulla questione di Totti, indignato per il senso comune e spesso anche dei tifosi, che prima si riempiono la bocca di bandiere, di sentimenti, di appartenenze, poi dopo ritengono che sia uguale agli altri un giocatore che da 23 anni veste la stessa maglia, poteva andare al Real Madrid, al Milan, alla Juventus, guadagnare un sacco di soldi, è rimasto a Roma, legando la sua sorte sportiva la Roma, vincendo 2 coppette, perché a Roma ha vinto pochissimo rispetto a quello che poteva vincere, e oggi gli si fanno le pulci, gli si dice che non ha capito, che è vecchio e se ne deve andare, che non corre più come prima. A parte che correre non è l'unica cosa che conta nel calcio e nemmeno la fisicità, se no Pjanic non giocherebbe, non mi pare che abbia questo fisico, no, certo, ma però... E in ogni caso io credo che si debba riconoscere che Totti non è come gli altri e che Totti merita il rispetto che si deve a un campione che ha segnato la storia della Roma, che eventualmente il rispetto può essere anche quello di dire guarda caro Francesco, io non ti ci vedo più, non, secondo me non sei in condizione di andare in campo, non ti convoco neanche più nelle partite perché voglio evitarti figure non alla tua altezza, punto e basta, l'anno prossimo, e questo dovrebbe dire la società, non c'è più un contratto, ritieniti libero, se, come ha fatto la Juventus con Del Piero, no? Però io ritengo che rimanga un'umiliazione trattare quello che è stato un campionissimo in quel modo. Poi ha ragione da vendere Lucarelli, eh? Il momento più difficile è quello di capire da eterno Peter Pan, quando devi smetterla con il calcio giocato, devi smetterla con l'attività agonistica, professionistica al massimo livello, e quella è la decisione più difficile di tutti, più difficile della carriera di un giocatore. Matteo, provincia di Milano. Sì, ciao, grazie per la convocazione. Io volevo semplicemente dire una cosa, che alla fine probabilmente ognuno raccoglie ciò che semina, come si dice in gergo, e volevo far riferimento al piacere che ho provato domenica, anzi sabato sera, a San Siro durante Inter Sampdoria. Sì. Quanto si è meritato Ronaldo, dopo il comportamento che ha avuto andando a giocare nel Milan, andando a vedere una partita del Milan a San Siro prima di venire a vedere quella dell'Inter, eccetera eccetera, e naturalmente in contrapposizione la lode e il piacere estremo a osannare José Mourinho per tutto quello che ha fatto per tutti quanti noi. Quindi, per la gioia di Roberto Mancini, felice come una Pasqua. Questo è un altro discorso, Mancini è un professionista e sa bene che se qualcuno ha fatto bene. Non lo dirà mai, non dirà mai, anzi, ha detto altre cose, ha detto, bene, ci hanno portato fortuna, ce li portiamo dietro ancora, se vogliono venire. Ma Mancini, soprattutto in un momento come questo, l'idea di avere in tribuna Mourinho, insomma, secondo me non l'ha presa benissimo, anche se non lo confesserà pubblicamente nemmeno sotto tortura. Quanto a Ronaldo, la sua parabola la conosciamo, ha rilasciato altre dichiarazioni di grande amore, di grande affetto per l'Inter, che è stata una storia d'amore vera, non è stata una storia di meretricio. Poi ci sono cose che a un giocatore da tifoso estremo non puoi perdonare, vero Boris Sollazzo? Ma sì, detto questo, io sto con Totti tutta la vita, devo dire, non senza mezze misure. Ma proprio non ho assolutamente nessun dubbio, ma guarda, ne faccio una considerazione mediatica, proprio non capisco come non si possa concedere l'onore delle armi anche delle dichiarazioni a un giocatore. Non so se ci ricordiamo che cosa Maradona diceva a Bianchi o Matteus a Trapattoni o Gullit a Sacchi. Adesso questo politicamente corretto, per cui i giocatori non dovrebbero dire quello che pensano anche ai loro allenatori, mi sembra folle. Sì. Tra l'altro Totti è di una gentilezza nelle sue dichiarazioni, tanto da dire tenetevi Spalletti anche il prossimo anno. Secondo me sai che è proprio quello di aver fatto arrabbiare Spalletti, ma dice ma da che pulpito questo qui mi raccomanda, a chi da mi futuro... deve raccomandare? Da futuro vicepresidente, perché sei anni di contratto ce l'ha lui come dirigente, non Spalletti. Quindi francamente mi sembra anche normale che uno si prepari a dire la sua anche sul futuro organigramma della Roma. Però detto questo, mi sembra che ci sia stato un incredibile goffaggine, se vogliamo essere buoni, o cattiveria, se vogliamo essere cattivi, verso un giocatore che è veramente, poi chi vive a Roma lo sa, ha portato l'acqua con le orecchie alla squadra e alla città. Quindi io sono abbastanza indignato per come è stato trattato, anche perché avevano una via d'uscita comoda, nel senso che se a dicembre Pallotta diceva guarda, abbiamo parlato con tutti e non c'è spazio per te, lui poteva dire vabbè, non mi sono ripreso dall'infortunio, sono costretto ad abbandonare il calcio, se ne usciva con dignità. Oppure adesso vado a giocare in America, cosa che magari accadrà, se come ha lasciato intuire si sente ancora un giocatore. Ma io me lo auguro per lui, sì, me lo auguro per lui, perché la verità mi sembra che a Roma, da Totti a De Rossi, l'amore incondizionato per una squadra poi non paga. Totti probabilmente avrebbe vinto fuori da Roma due Coppe Campioni, svariati scudetti, un pallone d'oro, si è accontentato di uno scudetto e qualche coppetta, e questo è quello che ha ottenuto, un coro all'inizio partita e a fine partita una tifoseria che già si era dimenticata tutto, perché Dzeko aveva fatto una doppietta. Magari qualcosa di più di Maldini, che invece si è beccati i fischi di tutta la curva. A proposito di Milan, questa sera non divagare, sai che cosa ti attende. Sentiamo le voci dei due accampamenti, a partire dal Milan. Parla Berlusconi, parla Mihajlovic. Adesso il Napoli scenderà in campo con degli imperativi categorici molto forti. Punto primo, dopo due sconfitte deve risorgere. Punto secondo, ha la possibilità, vincendo, di tornare in testa alla classifica. Punto terzo, si deve ripresentare dopo due sconfitte al suo grande pubblico, che lo sosterrà in maniera assoluta con il grandissimo cuore, il grandissimo tifo degli straordinari tifosi napoletani. No, Mihajlovic adesso ci deve convincere i tifosi rossoneri la società e il sottoscritto ha un solo modo, deve vincere tutte le partite. Vuol dire che lei non è convintissima. Da qui alla fine, no, non sono soltanto io, perché io non prendo mai delle decisioni personali, prendo delle decisioni che condivido sempre, certo, con tutti. Una partita che è più facile preparare che una partita con Carpi o non so, un'altra squadra diciamo più piccola, sono partite sapendo che vai a giocare a Napoli contro una squadra forte, stadio pieno, è una partita che mi piacerebbe giocare a me. Che a me piacerebbe vincere tutte, no? No, anche voi, no? Però purtroppo non lo possiamo permettere, promettere questo. Noi lo possiamo promettere che entriamo in campo sempre per giocare e per vincere, come abbiamo fatto sempre. Poi, come dice il povero Bosco, si può vincere, perdere e anche pareggiare. Cioè, vediamo quello che succede. E adesso, fronte Napoli... De Laurentiis e, pensate un po', il re di Vivo Perlaino. Sì, ma il Bologna è una squadra allenata molto bene, abbiamo già visto il lavoro che Donadoni aveva fatto con il Parma. Non si può sempre essere vincenti, ma del resto poi la Juve veniva da 15 vittorie consecutive, quindi un incidente di percorso di un pareggio ci poteva anche essere. Beh, noi abbiamo avuto negli anni precedenti a Maradona Vinicio, un ottimo allenatore che giocava più o meno come gioca il Napoli da adesso. Mi sorprende niente, perché sono tutti giocatori molto seri, molto professionali, e noi tifosi del Napoli speriamo che il Napoli ce la faccia. Generalmente il mercato invernale è un mercato povero, non è un mercato ricco, quindi va bene così anche per non rompere l'equilibrio. Sollazzo, siamo alla notte della verità? Siamo alla notte della verità, devo dire, per tanti motivi, perché il Napoli è costretto a vincere non tanto per quello che può succedere davanti, quanto per quello che ha dietro, nel senso che Fiorentina e Roma sono ripartite, anche solo un pareggio con la Fiorentina la prossima settimana potrebbe essere un grosso problema. Dall'altra parte, dopo le due botte di Milano e morale di Torino e Villarreal, sì, vuol dire alla Juventus: hai vinto 15 partite, ne hai pareggiata una e stai ancora dietro. È chiaramente un'occasione unica per dare alla Juventus magari un po' di quell'angoscia che abbiamo avuto noi per 6 partite, che probabilmente sappiamo reggere di meno. Detto questo, purtroppo è una partita da vincere, nel senso che non ci sono scelte, perché dietro hanno ricominciato a camminare. E quindi certo, quella che sembrava un campionato a due velocità, in verità... non è così, e soprattutto con la Fiorentina con lo scontro diretto a un passo. Sì, poi San Paolo esaurito, l'accoglienza dopo la sconfitta con la Juventus all'aeroporto di Napoli, eccetera. Non è un po' un voler ringraziare in anticipo, in chiaro anticipo, la squadra per quello che ha fatto? Perché sarebbe un brutto segnale quello. Brutto segnale non credo, guarda, la gratitudine per fortuna è un valore, ma torniamo alla cosa di Totti, se tu vai a Torino e fai una partita ottima secondo me, perché poi appunto la Juventus non prende mai gol perché è una grande fase difensiva, e tu comunque vai a fare la partita, forse non fai il tuo gioco ma vai a fare la partita e la perdi per sfortuna, perché voglio dire il gol di Zaza è il tiro di Pogba che invece contro il Bologna non entra, esattamente lo stesso tipo di partita e lo stesso tipo di occasione. È giusto che i tifosi dicano andiamo avanti così, non credo che sia un ringraziamento, è un modo per dire non molliamo, perché in 180 minuti contro la Juventus abbiamo dimostrato noi di essere più forti, e questo secondo me è vero. Poi la Juventus ha una rosa molto più forte, la Juventus se dovesse avere diffidati, e non li ha come li abbiamo noi, e potessero essere ammoniti stasera, metterebbe dei giocatori che sono molto più forti di quelli che potrebbe mettere il Napoli, a se visto a Villarreal, quindi in termini assoluti è più forte la Juventus, però tu hai dimostrato a quella squadra che in uno scontro diretto, in due scontri diretti, sicuramente non sei riuscito a persi, quindi non c'è volontà di dare ai giocatori l'idea che va bene così, è un modo per dire ai giocatori continuiamo così, è come il canto alla fine della partita, insomma, speriamo di sentirlo stasera. Sì, non sono d'accordo con te sul fatto che a Torino il Napoli abbia fatto la migliore delle partite, perché io sono rimango convinto che quella doveva provare a vincerla con, ti ripeto, contando sulla, su un attacco che fa paura a tutti, contando sui cerotti della Juventus, contando anche sul fatto che alla fine cosa ti può succedere, qual è la cosa peggiore che ti può succedere? Di perdere, anche usando di più, hai perso lo stesso e non hai mai tirato in porta, Boris, quindi io quella partita non la leggo tra quelle più positive. Però sarai d'accordo con me che la rigiochi 20 volte e non la perdi? No, non la perdi. Il problema è che devi giocare per vincere. Il Napoli, per carità, non l'ha lì fatto. C'è anche la classifica. Il Napoli ci ha provato, nel senso che il Napoli comunque ha avuto 3 occasioni, la Juventus 2, poi ci sono anche le altre squadre davanti. C'è il fatto che tu non hai giocatori che sono abituati a giocarsi grandissime partite, i vari Sai, Giorginio, cioè si è vista la differenza tra Giorginio e Marchisio. Marchisio è uno abituato a giocare certe partite, Giorginio no, non che abbia giocato male, ma inevitabilmente i valori anche precedenti di alcuni giocatori, l'esperienza di alcuni giocatori valgono. Esisteva la Juventus allo Stadium, secondo me tu te la sei giocata bene, poi sono d'accordo con te, non te la sei giocata al meglio, hai fatto partite molto migliori, però là conta anche la contingenza, voglio dire. Detto questo, tu hai un'occasione d'oro, cioè quella di dire alla Juventus hai fatto 46 punti in 16 partite e non ti è bastato, secondo me è un bello schiaffo dopo averlo ricevuto tu da Zaza, però lo devi fare contro una squadra che ha secondo me 2 giocatori che ti faranno vedere i sorci verdi, perché Bacca ha quelle penetrazioni centrali che il Napoli soffre tantissimo. Bonaventura gioca tra le linee, e a Napoli per esempio si ricordano una partita fantastica di Vasquez in Napoli-Palermo 2-0, cioè sono quei giocatori che soffre molto, quindi hai di fronte la squadra peggiore che potevi avere in questo momento. Non so se ne parlavamo insieme, il Napoli è un po' allergico al 4-4-2 degli altri. Altro che, sì no, assolutamente. No, quindi guarda, quasi fa il Napoli, nel senso che non cambia il giudizio sulla stagione, ma certo che se si vuole fare il salto di qualità è più stasera che domenica scorsa, sicuramente. Cosa ti fa paura del Milan, oltre a quello che hai citato? Sei sinceramente spaventato di questo Milan, che comunque ha preso un buon abbrivio, e con Mihajlovic, che Berlusconi dice chiaramente mi deve convincere, ma non solo me, deve convincere anche molti altri. Mihajlovic, tra l'altro, ha risposto, mi facciano sapere, mi dicano loro se devo cercarmi un altro posto, spero di trovarlo. Guarda, io spero di avere un Higuain e un Insigne in grande forma, perché secondo me contro Alex e Zapata possono far male. Poi ripeto, davanti sono tutti i giocatori che faranno male al Napoli, perché Bacca, Niang e Bonaventura, non tanto per valore assoluto ma proprio per come giocano, creeranno sicuramente dei problemi a Isai, che è stanco e si vede, ad Albiol che cercherà di non farsi ammonire e quindi non sarà cattivo come al solito, e a Koulibaly, che l'unico difetto che ha sono proprio le penetrazioni centrali, su cui non sempre si mette bene. Quindi sì, diciamo che non mi stupirebbe di vedere una partita che finisce tanto a tanto. Tu dici, e la settimana prossima la Juventus, cioè nel prossimo weekend la Juventus riceve l'Inter di Mancini, ma senza Mourinho in tribuna. Ci conti su quella partita? No, contavo più su Donadoni che su Mancini. Sei d'accordo con me che in questo momento Sampdoria e Palermo sono quelle le due messe peggio in questo particolare preciso momento? Assolutamente sì, io sono abbastanza convinto che soprattutto conoscendo Stellone possa esserci veramente il miracolo, perché la Sampdoria si vedeva con Montella a bordo campo in Inter Sampdoria, a un certo punto lui si lascia sfuggire una frase gravissima per un allenatore, che è quella: non sono una squadra. E quando tu hai dei giocatori che si sentono dei solisti e non sono una squadra, vedi Fernando, vedi Soriano, è drammatico, perché non sai veramente come andarli a ripescare. Dall'altra parte il Palermo, Zamparini l'ha vampirizzato, gli ha fatto tutto quello che si potrebbe fare di male a una squadra, lui è riuscito a farglielo, e davvero serve un miracolo secondo me a Palermo per salvarsi. Onestamente non se lo meriterebbe Zamparini. Poi mi spiace da morire per i tifosi del Palermo, però dopo tutto sto casino non meriterebbe tanta fortuna. Io dico che gli Achini lo devono fare santo se riesce a salvare il Palermo, sì, perché secondo me in questo momento il Verona può tranquillamente recuperare 8 punti al Palermo. Sì, sono d'accordo. Figuriamoci le altre. Figuriamoci Carpi e Frosinone, che sono ben vive. Grazie Boris. Grazie a te. Ciao. Allora, cosa stavo leggendo? Qualche messaggio. C'è chi domanda perché non gioca Romagnoli questa sera nel Milan, perché reduce dall'influenza e quindi non potrà essere della partita. Brutta notizia per il Milan, naturalmente. Giocherà Zapata al suo posto. Emanuele, Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Io faccio i complimenti per la trasmissione. Allora, grazie. Chiamavo per Ventura. Sì. E niente, allora, Io dico, io sono tra quelli che, diciamo, può contestare Ventura, ma per cosa? Per il gioco che nell'ultimo, cioè, da gennaio, da, comunque da novembre in poi, che è veramente il problema del Toro attuale, è proprio il non gioco causato proprio dalle scelte di Ventura. Ad esempio, solo ieri, ad esempio, Zappa Costa, che è un giovane molto in gamba, non gioca praticamente mai. Prima c'era Molinaro, adesso ieri ha fatto giocare Gaston Silva. Quindi su Ventura, chiaramente, da tifoso del Toro ci mancherebbe, come si fa a criticarlo per quello che ha fatto in questi 5 anni? Ha fatto delle cose stupende, veramente. Adesso la critica, io penso, spero che però Emanuele, mi perdoni, se fa queste scelte non è che si è rincoglionito tutto d'un colpo, ci saranno delle ragioni. Io credo che il Torino sia un magnifico progetto, si sta lavorando su un progetto con una classifica del tutto tranquilla, un avvio di campionato che forse aveva anche illuso e una società molto solida, perché a me piace da morire quando insomma c'è una contestazione che io non riesco a capire, perché se è per il gioco, per le scelte. Il Torino è una squadra molto giovane e che può avere un grande futuro, ha un sacco di under 21, ha un settore giovanile che produce, eccetera. Il problema è molto banalmente quello del gol, perché il Torino, nonostante il ritorno di Immobile, nonostante l'arrivo di Belotti, da cui ci si aspettava molto di più, è una squadra che fa una fatica dannata a trovare il gol. Se poi c'è un rigore, che è un rigorino, a voler essere generosi, e mandi Lopez a tirarlo, allora forse su quello possiamo discutere, perché a me sembra davvero fuori dal contesto il biondo giocatore argentino ben noto. Sergio, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Volevo solo fare un breve commento su Totti. Io sono di Torino, sono del Torino, quindi abbastanza imparziale, neanche della Juve. Per cui dicevo, forse l'errore che ha fatto Totti, volendolo chiamare errore, non è tanto quello dell'intervista. Probabilmente un paio d'anni fa avrebbe dovuto valutare bene se era il caso di continuare o meno, ma perché quest'anno farà 40 anni Totti. Se Totti può giocare forse un tempo e neanche delle partite, quindi diventa un problema particolare. Sergio ha sentito, no, ma certo, ma ha ragione, ma ha sentito che è vangelo quanto ha detto prima Lucarelli, cioè il momento più difficile nella vita di un giocatore, di uno sportivo, è quello di capire quando è il momento di togliere il disturbo, ed è sempre un brutto momento, perché Lucarelli non ha avuto peli sulla lingua nel dire: noi siamo cresciuti con, siamo giovani, tanti soldi, molte attenzioni, questa è la nostra vita, e a un certo punto ci troviamo lì a dover smettere, e magari non siamo neanche capaci, non siamo neanche in grado di andare in posta a pagare una bolletta. Ci fermiamo, torniamo domani. Mauro D'Ancona, ci sentiamo domani, mi perdoni, ma ho finito il tempo per oggi. Alessandro Marco Tulli, il nostro autore, Federico Bini in redazione, Andrea Roccabelli in regia, ciao. Sono per colpa di Tizio, per colpa di Gaio, qui siamo sempre fermi a Pensini ad aspettare l'autobus che parte. E vedrà che sta autobus ci saliamo, e una volta ci siamo saliti andremo a capolinea.